stasera ci troviamo per un'iniziativa particolare. Dobbiamo presentare un'iniziativa editoriale che è una novità, però allo stesso tempo presenta un libro per certi aspetti già conosciuto. È un'iniziativa editoriale di Pinuccio Di Cesaro, della casa editrice Praxis 3, che quest'anno, nel 2006, quindi in occasione del 90° anniversario della morte di Cesare Battisti, scomparso a Trento il 12 luglio del 1916, ha deciso di pubblicare questo volume intitolato Impiccate il traditore, che non è la ristampa di un vecchio libro, però non è neanche un nuovo libro. E sulla storia di questo libro poi parlerà Vincenzo Calì, che è il curatore dell'archivio Battisti. Succede che praticamente Klaus Gatterer, dopo aver pubblicato questo volume in lingua tedesca dall'Europa Verlag a Vienna nel 67, in occasione grossomodo del 50° anniversario, no, della morte di Battisti, ha scritto questo testo in italiano, e questo testo in italiano, questo dattilo scritto, che poi è stato stampato nel 75 dalla casa editrice Nuova Italia di Firenze. Praticamente una rielaborazione di questo testo è stato stampato poi dalla casa editrice Nuova Italia di Firenze nel 75. Perché Gatterer poteva passare dalle due lingue, dall'italiano al tedesco? Perché Gatterer era nato a Sesto Posteria nel 24, è morto a Vienna nel 84, quindi è morto più di 20 anni fa, e sicuramente è una persona che conosceva perfettamente le due lingue, non fosse altro per il fatto che è stato obbligato a frequentare le scuole di lingua tedesca. Quindi, essendo nato le scuole di lingua italiana, essendo nato nel 24, ha dovuto frequentare le scuole in lingua italiana. E lui praticamente più volte ha detto che il suo interesse per Klaus Gatterer nasce dal fatto che sentiva diverse opinioni su questa persona, no? Ecco, il suo interesse nei confronti di Battisti nasceva dal fatto che a scuola era presentato come un eroe, mentre in famiglia, nel mondo di lingua tedesca, era presentato come un traditore. Sicuramente questa è una cosa molto, molto interessante, no? Perché effettivamente la figura di Battisti può essere vista almeno da questi due punti di vista per quanto riguarda il suo impegno politico e l'impegno politico e sociale. Gatterer poi era uno orientato politicamente verso l'ideale socialista e sicuramente ha cercato di togliere dall'immagine battistiana tutte le incrostazioni della retorica nazionalista che sicuramente questo personaggio ha avuto. E sicuramente ha scritto un libro molto molto interessante, fra l'altro leggendo nelle cronache si scopre che questa prima stesura del libro lui l'ha scritta in 4 settimane, insomma, no? Quindi era un giornalista di lusso, no? Cioè abituato a lavorare con i tempi del giornalista, ma con una capacità di approfondimento notevole, insomma, no? Cioè 4 settimane per scrivere questo libro è veramente una cosa notevolissima. Poi voi sapete che Gatterer ha scritto anche altri libri sulla storia della questione altoatesina, In Kampf gegen Rom, e altri libri pubblicati tutti in lingua italiana negli ultimi anni dalla casa editrice Praxis 3 di Bolzano. Questo era l'ultimo libro praticamente che mancava, no? alla collana delle opere di Gatterer. Io ho avuto modo di conoscere Gatterer anche personalmente, alla fine degli anni 70 spesso veniva a Bolzano per fare conferenze, poi nell'81 ha ricevuto il premio della stampa, e ricordo averlo visto per l'ultima volta a Bolzano nell'82 in occasione di un corso di aggiornamento per insegnanti, l'istituto magistrale, una persona molto disponibile e molto interessata al rapporto fra conoscenza storica e agire politico, questo era un discorso molto molto molto importante. Anch'io ho provato a studiare un po' la questione di Battisti e soprattutto per quanto riguarda il discorso molto spesso attuale, no? Battisti teorico del confine del Salorno, teorico del confine del Brennero, perché sicuramente era un problema incombente, no? E io mi ricordo che quando facevo le scuole elementari la maestra ci portava il 25 aprile, il 2 giugno, il 4 novembre al Monumento della Vittoria, no? Allora era anche naturale per certi aspetti andare il 4 novembre al Monumento della Vittoria, un po' meno naturale il 25 aprile andare al Monumento della Vittoria, però questo è anche un altro dei problemi, no? Cioè il fatto che gli italiani dell'Alto Adige abbiano avuto per tanti anni come punto di riferimento un simbolo così problematico e così complesso allo stesso tempo, insomma, no? Per cui in questo monumento, dove c'erano queste scritte, all'interno di questo monumento c'era anche l'erba di Cesare Battisti, per cui risultava normale, no? Per un bambino pensare che Battisti fosse stato un nazionalista, un teorico del confine del Brennero. Per cui ho provato anch'io a cimentarmi in questo settore non potendo rivolgermi personalmente al personaggio, visto che era defunto da tempo, ho provato a interpellare le fonti. E ho visto che Cesare Battisti è stato un personaggio molto complesso e molto anche strumentalizzato anche dall'altra. Ad esempio, andando alla biblioteca, subito ho visto che fortunatamente gli scritti politici e sociali di Battisti hanno avuto non una, ma due edizioni addirittura. Una del 23, Le Monnier, e una del 66, della Nuova Italia. Solo che nessuna delle due poi è completa. Nella prima edizione del 23, siamo all'inizio del fascismo, non ancora in pieno regime fascismo, fascista, però siamo all'inizio del fascismo, ci sono tutti i discorsi di Battisti fuorché i primi, quando era un socialista internazionalista. Nell'edizione del 66 di Casa Editrice Diario Socialista ci sono tutti i discorsi fuorché gli ultimi, quando ha rivendicato il confine del Brennero. Quindi vedete che, ecco, l'uso politico di Battisti è stato molto importante da entrambe le parti. Sicuramente però Battisti non era una persona schizofrenica con problemi di personalità, tutt'altro. Battisti, noi tutti lo conosciamo per la fine che ha fatto, per il suo impegno politico, però Battisti era anche un geografo, non a caso negli anni 20 Le Monnier pubblicò anche gli scritti geografici, che sono stati recentemente anche ristampati da una piccola casa editrice di Trento. Battisti quindi un geografo che conosceva perfettamente la realtà trentina e anche quella altoatesina. Si occupava di antropogeografia, rapporto fra l'uomo e l'ambiente. Sicuramente conosceva la realtà altoatesina, sicuramente conosceva anche la presenza di comunità di lingua italiana nella Bassa Tesina, nella città di Bolzano, nella città di Merano, non a caso insieme a De Gasperi e a Mussolini era presente anche in queste realtà per fare i comizi di carattere politico. Quindi conosceva, era al corrente dell'esistenza di nuclei di popolazione di lingua italiana di origine trentina in questo territorio, però a differenza di Tolomei che allargava poi questo tipo di presenza a tutta la popolazione sudtirolese e diceva che la popolazione sudtirolese era italiana, recentemente tedeschizzata e quindi andava reitalianizzata, Battisti era sicuramente consapevole del fatto che questa presenza di origine trentina era limitata in queste zone del territorio. L'attività politica di Battisti quindi è sempre fortemente caratterizzata dalla conoscenza del territorio ed è un'attività che cambia nel corso del tempo. Battisti ha studiato a Graz, a Vienna, a Torino, a Firenze e cambia quando tramite Ernesta Bittanti, che divenne in seguito sua moglie, entra in contatto poi con Salvemini e un nucleo di socialisti che poi dopo lo apre a questo filone di pensiero politico e lo apre anche la conoscenza dei cosiddetti austromarxisti, Renner, Bauer, Kautsky, persone che avevano affrontato il problema nel rapporto fra socialismo e questione nazionale, cioè un problema che anche Battisti aveva vissuto, stava vivendo in prima persona. Questi austromarxisti sono molto importanti perché vivendo in un territorio molto ampio, molto complesso come l'impero austro-ungarico, erano consapevoli dell'importanza delle questioni nazionali anche per il proletariato, non solamente per la borghesia. Ed erano consapevoli che la stessa nazionalità che in un territorio era maggioranza dominante, in un'altra parte del territorio dell'impero austro-ungarico poteva essere minoranza dominata. E quindi proprio per questo prevedevano forme di autonomia territoriale, ma anche forme di autonomia culturale per i gruppi linguistici, ma anche forme di autonomia per le singole persone. Quindi una situazione complessa che veniva poi dopo analizzata in questo modo. Quindi la posizione di Battisti cambia nel corso del tempo, anche perché cambia la situazione politica all'interno del Regno d'Italia e nell'impero austro-ungarico. In un primo momento considera più opportuno anche per il Trentino l'appartenenza al nesso austro-ungarico, perché quello che adesso chiameremo il welfare praticamente era molto più avanzato in Austria che non in Italia. Col passare del tempo cambia la situazione sia in Austria che in Italia e quindi mentre prima lui rivendica una forte autonomia per il Trentino, in una successiva fase rivendica il distacco del Trentino dall'impero austro-ungarico e l'annessione all'Italia. In una prima fase rivendica il confine di Salorno, pur essendo a conoscenza di questa presenza italiana a nord di Salorno. Poi, voi sapete, la Prima Guerra Mondiale scoppia nel 14, l'Italia entra in guerra nel maggio del 15, nel periodo della neutralità Battisti interviene a fianco di Bissolati, a fianco di Salvemini, perché l'Italia entra in guerra. Quindi a fianco di questo filone di interventismo democratico, di personaggi che pur avendo un orientamento politico socialista erano convinti che solamente la risoluzione dell'Austro-Ungheria avrebbe potuto creare quel presupposto per la liberazione poi dei popoli. Questo era fondamentalmente il percorso, no? E a un certo punto Battisti, in divisa da un ufficiale, nell'aprile del 1916, in un discorso famoso tenuto a Milano, rivendica anche il confine del Brennero. Chiaramente questa singola rivendicazione, estrapolata da tutto il percorso biografico di Battisti, ha consentito poi dopo alla retorica fascista di strumentalizzare, no, questa cosa, anche perché c'era bisogno di, in qualche modo, di inventarsi tradizioni, di diventarsi eroi, no? Pensiamo anche alla strumentalizzazione di Oberdan dall'altra parte, no? Sul versante triestino, che è un versante anche lì molto complesso per quanto riguarda il rapporto fra socialismo e questione nazionale, in una realtà però molto diversa, molto più ricca, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista culturale, pensiamo all'università e cose di questo tipo. Quindi chiaramente poi dopo succede che negli anni 20, ad esempio per quanto riguarda la città di Bolzano, abbiamo avuto la costruzione del Monumento alla Vittoria, che in un primo momento sembrava dovesse essere dedicato proprio alla figura di Cesare Battisti, e solamente l'opposizione della famiglia, degli eredi, della moglie e dei figli di Battisti ha fatto in modo che questo monumento poi non fosse dedicato a Battisti ma alla Vittoria, pur essendo la figura di Battisti incastonata all'interno di questo monumento. Quindi direi una figura molto complessa, molto interessante, ma assolutamente coerente, diciamo così, coerente alla formazione politica e alla formazione scientifica di geografo, che ha dato luogo a molte discussioni. Per discutere di questo, questa sera abbiamo invitato appunto Vincenzo Callì e Pierluigi Sardi. Vincenzo Callì è uno storico trentino che per tanti anni ha lavorato all'Università di Trento e ultimamente milanese prestato ai trentini. Potrei farti la battuta di quella trasmissione che fanno su TCA, è molto bella, dove c'è il comico Gardin che cerca di trentinizzare il barista meridionale. Questa è molto bella, ma te la faccio dopo in privato. Un milanese prestato trentino che da 40 anni, dai tempi di sociologia degli anni 60, vive a Trento, ricercatore prima, docente di storia contemporanea all'Università di Trento e di Verona negli ultimi anni, se non sbaglio. È un esproprio ormai. Sì. Ma 20 anni fa Fabrizio Leonardelli, l'attuale direttore della biblioteca di Trento, mi raccontava di un progetto che avevano loro di fare il dizionario biografico dei trentini illustri, no? Perché i trentini, voi sapete che sono molto, molto simili ai tirolesi da questo punto di vista. E allora io, che ho sempre questo fare così provocatorio, ho detto: ma l'Ernesta Bittanti, che era nata a Treviglio, se non sbaglio, Treviglio? A Cremona. L'Ernesta Bittanti, che è nata a Cremona, la moglie di Cesare Battisti, la considerate la Trentina o la considerate una foresta? Ecco, perché, vabbè. Quindi Callì, che per 40 anni ha lavorato a Trento come ricercatore, è stato docente, è stato anche il direttore del Museo del Risorgimento Trentino, quello che adesso si chiama Museo Storico in Trento, ed è stato anche il curatore, e tuttora anche il curatore dell'archivio Battisti, perché negli primi anni 80, se non sbaglio, gli eredi di Battisti, Mimma Battisti Bonelli, che voi tutti conoscerete perché è una nostra concittadina, è stata anche assessore recentemente, Marco Battisti, e forse era ancora in vita Benedetta, ed era ancora in vita forse Camillo, era ancora in vita all'epoca, gli eredi di Battisti, quindi uno dei figli e i nipoti hanno donato al Museo del Risorgimento tutta la biblioteca e tutto l'archivio di Battisti. Quindi per questo motivo abbiamo invitato Vincenzo Callì e Sardi, che ho avuto il piacere di conoscere solamente oggi pomeriggio, giornalista, e io 30 anni fa avevo letto quel libro sulla SLOI, mi ricordo un libro da giornalista d'assalto, come si conveniva negli anni 70, curatore che aveva collaborato anche quel libro sugli anni delle bombe con Ferrandi, no? Ecco, l'unico libro forse sul periodo 43-45, bombardamenti a Bolzano e Trento, pubblicato dalla Sete ancora alla fine degli anni 60, e autore anche di altri libri. Recentemente ha pubblicato questo volume che vedete lì alle spalle di Vincenzo Callì, su Battisti e De Gasperi e Mussolini, questi tre personaggi incredibilmente diversi, incredibilmente simili per quanto riguarda il loro rapporto passionale col giornalismo e la politica che hanno operato nel Trentino nello stesso periodo, fondamentalmente, no? Cioè prima della Grande Guerra. Ecco, quindi darei la parola a Vincenzo Calì per presentare. Partiamo dal giornalismo. Aspetta, attenzione a questo filo. Buonasera, allora io vi parlerò da giornalista di Cesare Battisti, giornalista. Cesare Battisti è una figura straordinaria, una figura bellissima, soprattutto è un giornalista che fonda nel 1900, nell'aprile del 1900, fonda un giornale Il Popolo. Lo fonda a Trento, è un giornale di anima e di spirito socialista, in una città come quella di Trento che era fedele all'imperatore e devota alla Chiesa, quindi questo era il primo grande ostacolo nella piccola Trento con 24.000 abitanti di allora, di avere un giornale di indole di spirito socialista. Ecco, e lui lo fonda, lo apre, prima copia risale all'aprile del 1900, del nuovo secolo, perché vuole festeggiare degnamente, vuole che Trento festeggi degnamente con l'inizio del nuovo secolo il primo maggio, il primo maggio dei lavoratori. E queste pagine di questo giornale quotidiano in una città piccola ma ricca di giornali, c'era l'Alto Adige, c'era la Voce Cattolica della Curia, c'era l'Alto Adige che era un giornale di ispirazione liberale, un giornale che oggi si potrebbe paragonare grosso modo al Corriere della Sera, mentre c'era la voce Cattolica che era un giornale locale, un giornale che guardava le piccole cose della città, però un giornale molto letto, erano giornali molto letti perché grazie alla scuola, all'obbligo scolastico nella città di Trento, nel Trentino, nel tutto il territorio dell'Austria, l'alfabetismo era sconosciuto. Mentre l'analfabetismo era una piaga, una delle tante piaghe del regno d'Italia. Immediatamente scoppia questo grande scontro politico, culturale e giornalistico con il giornale cattolico e i cattolici, per fronteggiare la forza di Cesare Battisti, l'abilità della sua penna, il suo lavoro quotidiano, lui faceva il cronista, impaginava, faceva il tipografo, era una ditta a conduzione familiare, una piccolissima tipografia. Lui poi un giorno dirà che il suo compagno più fedele sarà comunque sempre il debito, sempre questa difficoltà ad arrivare al giorno dopo. I cattolici scoprono fra le proprie file un altro personaggio straordinario del Trentino, e scoprono Alcide De Gasperi, e Alcide De Gasperi compare sulla scena del giornalismo proprio per fronteggiare Cesare Battisti, e lì nasce un duello molto forte, molto bello, fatto di pagine interessanti. Ecco Alcide De Gasperi che cambia subito la testata del proprio giornale, dalla voce cattolica lo trasforma nel Trentino. E nasce questo scontro che è sulla carta stampata, ma è anche uno scontro sulle piazze, perché Cesare Battisti da una parte e Alcide De Gasperi dall'altra sono sì giornalisti, ma sono anche quelli che allora si chiamavano agitatori politici, sono anche uomini di fede politica molto precisa, molto forte, uno è socialista, l'altro è un cattolico intransigente. Ecco, e c'è questo scontro violentissimo, sempre più forte, dalle pagine dei giornali alle piazze della città di Trento, ma soprattutto nelle varie e nelle valli e nella periferia del Trentino. Un Trentino del resto molto povero, che però vede nei due giornalisti una sorta di quasi di locomotive trainanti dell'economia trentina di allora. Ecco, abbiamo dei bellissimi articoli di Alcide De Gasperi quando nella Valle di Fiemme, da giornalista prima e da sindacalista poi, cercherà di andare incontro a quelle che erano le esigenze dei lavoratori del legno, quelli dei boscaioli, i quali lavoravano dalle stelle alle stelle, e racconterà in uno dei suoi articoli di questi lavoratori dei boschi che devono illuminare il loro posto di lavoro con le lanterne a petrolio. Ecco, su questa scena nel 1908, su questa scena già molto, molto forte, compare improvvisamente e in maniera molto violenta anche la figura di Benito Mussolini. Arriva a Trento come sindacalista, arriva a Trento come giornalista e subito si conquista la fiducia e l'interesse dei lettori e del popolo. La penna di Benito Mussolini è una penna molto agile, una penna molto bella. Sarà lui il primo che introduce nel giornalismo l'inviato speciale, cioè si recherà sul posto. Sono interessanti alcuni articoli che vengono pubblicati appunto sul giornale di Battisti, quello che riguarda la Santa di Susa, la storia molto complessa e molto bella di questa donna, di questa perpetua di un prete che diventa l'amante del prete, il prete la trasforma in una sorta di santa. Ecco, vediamo Benito Mussolini correre in bicicletta a Rovereto, da Trento a Rovereto in bicicletta, perché lì nella costruzione di un edificio c'è stato un crollo e sono morti degli operai, e forse per la prima volta il giornale Il Popolo si occupa di queste sciagure nel mondo del lavoro. Ecco, i giornali crescono e crescendo i giornali cresce anche quello che è il Trentino economico. Compaiono le prime pubblicità, anzi diciamo che le prime pubblicità compaiono sul giornale Il Popolo, diventano pubblicità sempre più ampie, sempre più belle, sempre più interessanti, ci si interessa alla vendita delle prime automobili, alla vendita delle prime biciclette, e abbiamo in Cesare Battisti una persona attentissima a tutti quelli che sono i ritrovati della tecnica. Lui girerà moltissimo il Trentino come geografo, lo girerà come agitatore sindacale, come sindacalista, come uomo di partito, lo girerà con il taccuino del cronista, e le pagine che ci racconta dal 1910 al 1914, all'agosto del 1914, a luglio del 1914, quando il giornale dovrà chiudere perché è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Ecco, noi abbiamo forse il momento più bello del giornalismo trentino, con dei grandissimi personaggi: Cesare Battisti, sua moglie Ernesta Bitanti. Particolarmente bello un articolo di Ernesta Bitanti che difende un gruppo di donne socialiste che abitavano nel rione degli Androni, un rione disperato, uno dei rioni più poveri della città di allora, della Trento di allora, e che questo rione, queste donne vengono insultate dal giornale cattolico, dal giornale del Cide De Gasperi. Mi dispiace che quest'anno, nell'ambito delle manifestazioni del 90° anniversario della morte di Cesare Battisti, la figura di Cesare Battisti a Trento sia passata un po' sottotono, mentre la provincia autonoma di Trento ha, come posso dire, ingigantito ancora di più, se era possibile, la figura di Alcide De Gasperi. Ecco, un altro aspetto di Cesare Battisti. Cesare Battisti forse è il primo giornalista che combatte contro la pena di morte. Il suo, nel 1901 c'era stato un efferato, un grave delitto a Rovereto. L'autore di questo delitto era stato preso, processato e condannato all'impiccagione. Ebbene, nelle settimane, nei mesi che precedono l'esecuzione di questa sentenza, il giornale Il Popolo, nella sua appendice, racconta si batte contro la pena di morte. Ecco, è lo stesso Cesare Battisti che assiste nel carcere di Rovereto all'impiccagione di questo pluriomicida. Questo pluriomicida si chiamava il boia dell'impero, il boia che girava per tutte le zone dell'impero ad eseguire le sentenze. Il racconto che fa Cesare Battisti è un racconto molto puntuale, un racconto molto bello, un racconto molto aspro, un racconto molto duro. Deve avere infastidito il boia Lange, e mi pare di vedere questo personaggio nella fossa del castello del Buon Consiglio in quel tragico giorno di luglio, vedessi venire avanti quel giornalista che probabilmente gli aveva creato un grandissimo fastidio. E a questo punto io passo la parola all'esperto, il vero esperto di Cesare Battisti. Grazie Sardi, grazie a Giorgio per... Giorgio Delle Donne ha già richiamato il profilo biografico di Cesare Battisti con grande precisione, richiamando anche gli aspetti anche contrastati e controversi, no, di una vicenda umana, politica come quella di Cesare Battisti, giornalista di vaglia, no, come ha richiamato adesso Luigi Sardi. Io vorrei così soffermarmi su Gatterer, no? Nel senso che perché questa operazione di riportare all'attenzione del pubblico questo lavoro di Klaus Gatterer, come ha ricordato Giorgio, nato questo lavoro in un momento particolarmente difficile, sono gli anni delle bombe, gli anni appunto in cui saltano i tralicci, in cui muoiono molti cittadini, sia di lingua tedesca che di lingua italiana, per le vicende degli anni 60 in questa regione. Gatterer vuol far conoscere, in un momento così tragico e così difficile, di grande contrasto, no, fra italiani e austriaci, e fra italiani e popolazione di lingua tedesca, far conoscere al pubblico austriaco e tirolese una figura come quella dell'italiano trentino Cesare Battisti. È molto importante, no, sottolineare come lui scelga proprio questo momento, il momento di massima tensione per Gatterer, anche il momento in cui lui vuol far conoscere ai suoi concittadini austriaci, tirolesi, diciamo, la figura di questo personaggio. Naturalmente nell'edizione tedesca, l'ha richiamato prima anche Giorgio, scritto in brevissimo tempo, perché come sempre appunto i tempi dei giornalisti sono tempi appunto tiranni, no, i tempi. Lui riesce appunto, con per la grande capacità comunicativa che aveva Gatterer, che peraltro noi abbiamo poi conosciuto anche in tutte le altre sue opere grazie all'impegno della casa editrice Praxis, che ha fatto conoscere al pubblico italiano le altre opere di Gatterer, questa appunto che mancava, completa appunto questa produzione di Gatterer. Era importantissimo, diciamo così, per noi italiani sapere come la pensavano i democratici di lingua tedesca di questa area alpina, no? Di questa area, di una figura come Cesare Battisti. Gatterer lo dice e lo racconta per i suoi, ma a noi italiani è utile oggi, a 90 anni dalla Prima Guerra Mondiale, dalle vicende tragiche che hanno portato all'impiccagione di Battisti, sapere come la pensavano gli austriaci su questa figura, questo personaggio? Credo di sì, dal punto di vista della convivenza, della capacità del dialogo, della creazione appunto di un contesto di convivenza fra popolazioni di lingua e cultura diversa, sia importante conoscere il punto di vista dell'altra parte. Ecco perché la scelta di ripubblicare il testo che Gatterer aveva pensato e scritto per la popolazione di lingua tedesca. Perché noi dobbiamo sapere cosa pensavano i democratici trentini, tirolesi e austriaci, e in questo caso Gatterer svolge questa doppia funzione, su una figura come quella di Cesare Battisti. Certo, era difficile tradurre, è chiaro che l'opera di Gatterer nel 66, rivolta al popolo austriaco e al pubblico di lingua tedesca, era appunto sotto quella forca stava l'Austria, ritratto di un alto traditore, fra virgolette. No? Tradurre, è difficile, no? Come sempre, tradurre il senso di questo titolo in italiano. No? Era difficile anche per gli altri lavori, la Praxis con intelligenza parlava appunto nelle traduzioni delle altre opere di Gatterer, di maledetti italiani, maledetti austriaci, no? Per richiamare appunto Schöne Welt, böse Leute, diventato bel paese, brutta gente. In questo caso è un titolo molto forte questo, no? Impiccate il traditore, che è un modo per voler capire che nel sentimento generale del mondo austriaco una figura come quella di Battisti era vista come una figura, diciamo così, negativa. Guthrie in realtà fa conoscere ai suoi concittadini di lingua tedesca una figura che poi negativa non è, nel senso che poi nel ricostruire la figura di Battisti, Guthrie, con la grande sensibilità che aveva, sa cogliere nella contraddittorietà del personaggio, perché Battisti, l'hai richiamato Giorgio prima, ci sono molte contraddizioni, no? In un profilo, come sempre, di fronte al dramma della Prima Guerra Mondiale, crolla la Seconda Internazionale, crollano i valori del socialismo a livello europeo, non è che siamo di fronte a un contesto tragico, no? Quindi insomma, pensare a delle coerenze assolute in una situazione come quella sarebbe assurdo, presuntuoso anche pensare che ci dovessero essere delle coerenze. Se noi immaginiamo come erano i dirigenti della Seconda Internazionale, che volevano l'internazionalismo proletario, non volevano le guerre, erano contro gli armamenti, sono costretti in tutta Europa a accettare l'idea che l'un contro l'altro armato i popoli europei finiscano in uno scannatoio come fu quello delle trincee della Prima Guerra Mondiale. Battisti è una persona tragica che entra dentro questa storia tragica della Prima Guerra Mondiale. Guthrie lo fa conoscere per quello che è, appunto, al pubblico di lingua tedesca. Aveva peraltro in quel periodo, uscirà poi in Kampf gegen Rom nel 68, importantissime queste date, no? Guthrie lavora su temi come quelli della conoscenza del diverso, dell'altro, no? Per quanto riguarda i tirolesi, in momenti, 68 è un momento di quelli cruciali, no? E lui fa uscire in Kampf gegen Rom. Naturalmente noi italiani l'abbiamo conosciuto solo molto più tardi questo libro per il grande pubblico, perché in lotta contro Roma esce solo 20 anni dopo, grazie sempre all'impegno di Pinuccio di Gesaro nella collana appunto della Praxis 3, questo importante volume in cui noi italiani abbiamo molto da imparare, no? Da come un austriaco tirolese come Guthrie vede la storia italiana del risorgimento, la storia del federalismo, delle vicende dell'unità nazionale. Quindi diciamo che Guthrie è da questo punto di vista, come peraltro ha sempre molto ben messo in evidenza tutta la scuola storiografica che si richiama Guthrie. Qui abbiamo presente appunto Leopold Steurer, che è stato da questo punto di vista quello che con maggiore sensibilità e attenzione ha curato la figura di Klaus Guthrie. Siamo di fronte appunto a un'operazione dal punto di vista editoriale che ci tengo a sottolineare, è un'operazione molto importante per gli italiani, diciamo non solo di Bolzano e di Trento, ma anche per il pubblico italiano in generale, no? Perché si può costruire una conoscenza, una coscienza europea, una cittadinanza europea solo se si ha la forza, la capacità, la volontà di comprendere il punto di vista degli altri. Solo così possiamo costruire, no? In questo senso una cittadinanza, una piena cittadinanza europea. Naturalmente Guthrie si mette a lavorare su Battisti quando già la letteratura se n'era occupata, come sempre gli storici arrivano un attimo dopo, Guthrie lo richiama nel suo libro subito, cioè i riferimenti sono Karl Kraus da una parte e Franz Tummler dall'altra, c'è una grande figura della letteratura tedesca come Tummler, no? Che già nel 65, due anni prima, in questa sua opera che poi verrà tradotta in italiano come Incidente a Trento, una grande potenza espressiva, Tummler, nell'immaginare con un io narrante, un Cesare Battisti che vede se stesso, le vicende storiche in cui è coinvolto. Questa opera letteraria di Tummler viene richiamata da Guthrie come un importante primo contributo da parte della letteratura austriaca di lingua tedesca. Poi anche Tummler era stato a Berlino, ma era sul tirolese di origine, quindi siamo sempre dentro nel mondo comunque che ha riferimento a queste aree alpina tirolese. Da una parte Tummler, dall'altra Karl Kraus, cioè il richiamo al fatto che Battisti era un cittadino austriaco e morendo lui sotto la forca, come diceva Guthrie, era l'Austria che condannava se stessa. Cioè la fine di Battisti, che rimane cittadino austriaco a tutti gli effetti fino alla sua morte, nella condanna a morte che non poteva che essere quella dal punto di vista del giudizio statale austriaco per una figura come il deputato di Trento Cesare Battisti, sia Kraus che Tummler, dal punto di vista letterario, individuano in questa tragica figura e nella tragica morte di Battisti la condanna che l'Austria ha verso se stessa. Gatterer lo traduce in termini storici, cioè di questa intuizione di tipo letterario di Tumler e di Krauss fa un'opera storica da grande giornalista, da grande comunicatore, e appunto è in questo senso che io ho, diciamo così, proposto a Pinuccia Di Gesaro di completare appunto queste serie di pubblicazioni in italiano del lavoro di Klaus Gatterer, che a tutt'oggi risulta anche la ricostruzione storica più veritiera della figura di Cesare Battisti, figura che peraltro ha già richiamato Giorgio delle Donne, per cui io vi invito a prendere il libro, a leggerlo e farvi un'idea di come gli austriaci consideravano una figura controversa e drammatica come quella di Cesare Battisti. Grazie. Siamo stati velocissimi, c'è lo spazio per domande, per approfittare della presenza di questi esperti relatori. Se qualcuno volesse fare delle domande, è pregato di venire qui, prendere il microfono, presentarsi e parlare. Posso chiedere una cosa? Secondo voi... Io direi che di Cesare Battisti da molto tempo si sta perdendo la memoria. A scuola la storia viene insegnata, come noi tutti sappiamo, e se anche tutte le città, tutti i paesi dell'Italia hanno una piazza, una via, una scuola intitolata Cesare Battisti, di Cesare Battisti francamente si è persa la memoria. Secondo me la provincia di Trento e il Trentino ha perso l'occasione quest'anno con i 90 anni dell'anniversario, di questo anniversario, di questo processo, di questa storia drammatica e anche molto bella, ha perso l'occasione di esaltare la figura di Cesare Battisti come soldato, per carità di Dio, di esaltare però la figura di Cesare Battisti per quello che era, di una persona che ha conosciuto il Trentino, che ha amato il Trentino, che l'ha fatto conoscere, una persona che ha creato le basi di un giornalismo moderno, veramente di un giornalismo moderno in una città difficile qual era la Trento di allora. Si è preferito probabilmente per ragioni così di carattere politico puntare sulla figura di Alcide De Gasperi, anche perché c'è questa voglia di portare Alcide De Gasperi sugli altari. Del resto, nel passato, in un passato che non è remoto, la Democrazia Cristiana, scivolando via dalle urne, aveva cercato di aggrapparsi agli altari, aveva cercato di aggrapparsi a questa figura certamente solenne, certamente importante, ma è una delle figure del Trentino, cioè Cesare Alcide De Gasperi non ci sarebbe stato se non avesse avuto lo stimolo forte, il pozzicamento quotidiano sul giornale da parte di Cesare Battisti, giornalista. Questo è un mio parere. E dopo forse la sinistra attuale ha dimenticato, la sinistra attuale che sta un po' svanendo, ha dimenticato forse uno dei suoi uomini migliori. Questo è il mio parere personale. No, su questa domanda, che in effetti, come sempre, abbiamo richiamato Gatterer come il miglior biografo di Battisti, perché nel mondo dei vinti gli austriaci hanno perso la guerra, i tirolesi l'hanno doppiamente persa, no? Perché hanno perso anche l'aggancio alla loro identità nazionale, e se viene sempre di più dai vinti una ricostruzione sofferta e problematica della storia, i vincitori di solito celebrano se stessi. Battisti è stato troppo celebrato, è stato monumentalizzato, lui stesso lo sapeva, perché ancora in vita diceva: se morirò mi faranno una lapide, se vivrò mi lapideranno. È stato, come dice Gatterer, doppiamente colpito, perché è stato lapidato in vita nella quella sorta di Via Crucis che rappresenta gli ultimi tre giorni della sua vita, e fu nello stesso tempo lapidato e gli fecero le lapidi, nel senso che la monumentalizzazione del personaggio, Giorgio ha richiamato prima il tentativo proprio di strumentalizzare la figura sia da prima da destra, poi da sinistra, no? Con un'oscillazione a secondo. Bene, questa è una figura che bisogna essere storicizzata, nel senso che sono, non sono maturi i tempi perché un popolo di vincitori, cioè tra virgolette, perché gli italiani hanno perso tutte le guerre, lo sappiamo, però in questo caso sono considerati anche la prima, cioè Caporetto l'ha perso. Ma comunque, nella tradizione generale, appunto, abbiamo vinto la prima guerra mondiale noi italiani, allora la riflessione è più difficile da fare, nel senso che il ritornare alla storia con una grande capacità critica viene prima da chi ha avuto più bastonate della storia. E chi è che ha più bastonate? Sempre i vinti, no? Rispetto ai vincitori. Allora, su una figura come Battisti, che è stata ampiamente e retoricamente celebrata, dopo 90 anni c'è una sorta di silenzio. Silenzio, certo, a 100 anni si spera che, uscendo l'opera Omnia, io ho suggerito, visto che anche il presidente della provincia di Trento l'ha preso in mano, di fare un'opera Omnia, finalmente, degli scritti di Battisti, del suo lavoro di geografo, di studioso, oltre che di politico, in modo da far uscire finalmente questa figura dalla retorica, dal mito e ricondurlo alla storia, no? Allora verrà il momento in cui, un po' più tardi di quanto non abbiano fatto uomini come Krauss, Tumbler o Gatterer, anche gli italiani potranno conoscere questa figura nella sua complessità, nella sua storicità, contestualizzandolo. Certo che queste cose sono difficili da dire a Bolzano, soprattutto, no? Perché mi rendo conto anche della difficoltà di un approccio di questo tipo. Però non dobbiamo dimenticare che l'intera Italia sulla prima guerra mondiale, che è stata, appunto, come diceva Battisti nelle lettere che scriveva la moglie, uno scannatoio, no? Ci sono celebrati i martiri caduti in tutte le piazze d'Italia, in tutte le vie, è stata monumentalizzata, perché 600.000 morti, bisogna, il lutto bisogna metabolizzarlo. Come se lo si metabolizza? Con i monumenti, con la retorica, con una retorica che è diventata poi retorica della retorica, no? Addirittura un'altra guerra è arrivata perché i destini non erano compiuti con la prima, bisognava fare una seconda. Cioè, l'Italia si è trovata in questi 90 anni dentro, diciamo così. Allora, cosa vuol dire uscire dalla retorica e dal mito? Vuol dire abbattere i monumenti? No, cioè, i monumenti ci sono, rappresentano hanno un significato storico. La figura di Battisti monumentalizzata per 90 anni sarà uno degli elementi di riflessione storica e storiografica, perché questo rientra proprio nella ricostruzione storica della vicenda di un popolo, di un popolo italiano. Non è ancora maturo a sufficienza il popolo italiano perché su questa figura si faccia una lettura profondamente critica come la storia richiede, perché c'è dietro il mito e c'è dietro tutta quella retorica che pesa. Poi c'è anche, dal punto di vista di Sardi, anche l'ha richiamato, un fatto che lui, essendo un socialista, uno dei fondatori del socialismo, dentro l'Internazionale Socialista, anche la sinistra, nella sua tradizione storica, non ha saputo confrontarsi con questa figura, no? Perché è una figura scomoda, difficile. Di fronte al crollo dell'Internazionale lui aderisce alla guerra, no? Quindi c'è una contraddizione forte. Quindi anche per il socialismo appropriarsi pienamente di questa figura diventa difficile. Non so se ho risposto alla sua domanda, comunque. Senta, dottore, volevo dire che la prima guerra mondiale, Caporetto, l'Italia ha perso una battaglia, ma non ha perso una guerra, Il generale Vidulic giustamente richiama questo aspetto dal punto di vista della storia militare, ha ragione lui, nel senso che una battaglia, però diciamo che, come dice Leo Valiani in una sua fondamentale opera sulla dissoluzione dell'Austria-Ungheria, nel 18 l'Austria-Ungheria si dissolve, il concetto di dissoluzione, no? Dopo, diciamo così, a Piave, insomma nell'estate del 18, i cechi, gli slovacchi, gli sloveni, cioè gli ungheresi, cercano di tornare tutti a casa propria, perché ormai l'impero sta crollando, si sta dissolvendo, no? Allora, dal punto di vista militare, una vittoria su un impero in dissoluzione non ha la potenza di una vittoria come quella che poteva essere rivendicata, tra virgolette, dalla Francia verso una potenza come quella germanica che non era affatto dissolta, no? Il caso italiano nella guerra italo-austriaca è un po' più complesso, no? Il generale Vidulic naturalmente dice, dal punto di vista strettamente militare, una battaglia persa non vuol dire aver perso la guerra, insomma, no? No, purtroppo dal punto di vista della ricostruzione storica l'ho richiamato, i vinti e i vincitori la vedono diversamente, no? I vincitori tendono però spesso a passare sopra, no, alle vicende tragiche della guerra. I primi che arrivano a affrontare le piaghe che la guerra ha determinato nella vita civile, nelle storie individuali, nelle storie anche soggettive, sono i vinti, no? Arrivano sempre prima i vinti a riflettere sulle piaghe della storia, sulle vicende tragiche delle guerre, di quanto non vi arrivino i vincitori. Questo come dato di tipo generale. Prego, signore. Mi chiamo Adriana Pasquali ed immagino che il mio intervento potrà apparire politicamente sospetto, perché forse sapete che sono un esponente di Alleanza Nazionale con la Respaldia, che è un'esperienza parlamentare. Io oltretutto, forse qualcuno saprà che io ogni anno vado a porre una corona assieme agli altri esponenti di Forza di Alleanza Nazionale.